Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, questa sera vi parliamo di un progetto, il progetto Kiss Earth, che ha vinto un bando Smart City del MIUR nella sezione dedicata ai potenziali giovani imprenditori al di sotto dei 30 anni. La loro idea è intervenire su un problema serio e oggi molto sottovalutato, le posture errate che ragazzi e ragazzini delle scuole medie soprattutto assumono quotidianamente nelle loro aule. E tutto questo con un dispositivo nato per i videogiochi. Ce ne parla Ilaria Bortone, ingegnere biomedico che ha collaborato a sviluppare Kiss Earth, intervistata da Federico Pedrocchi. Sentiamo. Uno dei problemi sono proprio la strumentazione ergonomica, i materiali ergonomici che sono presenti all'interno di una scuola. Perché il tema appunto è la postura, e qui che cosa troveremo? Troveremo un sacco di ragazzini e ragazzine che sono seduti malissimo su queste sedie. Sì, esatto, loro assumono degli atteggiamenti sbagliati che con il passare del tempo possono provocare dei problemi. Primo fra tutti il classico mal di schiena che oramai affligge 8 persone su 10, anche nei bambini. Anche nei piccoli, questi sono i dati, abbastanza sconcertanti. Voi entrate nella scuola con delle apparecchiature, adesso vediamo che cosa, ma anche con un intento, come dire, formativo. Bisogna che sia i ragazzini e ragazzine che gli insegnanti capiscano, insomma, come bisogna mantenere il più possibile una postura corretta. Ma per esempio le apparecchiature che cosa sono? Noi, grazie al finanziamento ricevuto dal Ministero, abbiamo avuto la possibilità di strutturare un laboratorio fisso di analisi del movimento e di mettere su un laboratorio mobile. Di analisi del movimento. Questo laboratorio mobile consiste di un'unità, per ora un'unità Kinect, quindi Microsoft Kinect, che ci permette di rilevare alcuni parametri significativi relativi alla postura dei ragazzi. Ecco, per il pubblico che non fosse informato, Kinect è quel sistema che ormai consente, esatto, davanti a un video magari un po' grande, di muovere nell'aria le braccia come se giocassimo a tennis e giocare di fatto a tennis, no? Ecco. Esatto, riesce a rilevare quello che è il movimento del soggetto che sta di fronte alla telecamera, quindi in questo caso al sensore. E qui cosa fate? Avete un ragazzino davanti, e in che posizione lo mettete? Allora, ci sono diversi tipi di protocolli, diciamo, che si possono seguire. Il primo è quello di assumere semplicemente una posizione ortostatica stabile, quindi eretta. Quindi il bambino sta in piedi davanti al dispositivo e vengono rilevati dei parametri relativi alla sua stabilità, quindi al centro di massa e come questo centro di massa oscilla nell'arco di tempo della prova. Ecco, perché se noi stiamo in piedi pensiamo così utopisticamente di stare fermi, in realtà invece ci muoviamo sempre un po'. Se non siamo ben messi con la spina dorsale, cosa succede in questi movimenti? Uno di noi oscilla fisiologicamente, però ci sono delle oscillazioni che possono essere percepite come patologiche. Oltre a questo fatto, poi è anche naturale che nel momento in cui viene rilevata la posizione del soggetto, quindi in questo caso del bambino, si guardano anche le simmetrie tra i due lati del corpo, e quindi in questo caso si possono vedere se effettivamente si rilevano degli atteggiamenti scorretti. Sì, ma quindi con questo sistema voi fate un'analisi che insomma dà delle indicazioni interessanti senza fare radiografie o cose di questo genere, insomma suscita dei sospetti mirati? Il nostro dispositivo non si sostituisce alla radiografia, immagino, che rimane ad oggi l'unica modalità per vedere la morfologia della colonna. Quella definitiva, diciamo. Esatto. Quello che noi intendiamo fare è mettere su una metodologia di screening che permetta in qualche modo di discriminare quali sono i casi che possono essere rilevati come potenzialmente critici o comunque che avrebbero bisogno di un approfondimento, e quindi rimandare questi casi ad una visita specialistica più altamente tecnologica nel laboratorio che abbiamo strutturato. Ecco, ma Ilaria Bortone, ci vuole un gruppo di lavoro che abbia un know-how per fare questa attività, soprattutto penso all'inizio, ma in generale pensa che voi potreste anche diventare, come dire, una realtà che fornisce questo know-how a dei presidi più diffusi, che quindi potrebbero portare questo, insomma, nel numero maggiore di scuole? Ovviamente dopo aver testato in questo periodo di attività di progetto il dispositivo, quindi aver riconosciuto quali sono le potenzialità e i limiti della strumentazione stessa, il nostro gruppo di lavoro si può porre come gruppo di formazione e quindi rilasciare quel know-how necessario per poter utilizzare la strumentazione e quindi poi usufruire semplicemente del monitoraggio da parte nostra. Con una funzione di assistenza. Esatto, una funzione di assistenza. Bene, grazie, buon lavoro, auguri. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.